Il terzo anello ad alta voce. I Buddenbrock di Thomas Mann. Il tifo si presenta nel modo seguente. Il colpito incomincia a sentire un malumore psichico che si acuisce rapidamente e diventa fiacco scoramento. Nello stesso tempo si impadronisce di lui una spossatezza che non coinvolge soltanto muscoli e tendini, ma anche le funzioni degli organi interni, non ultime quelle dello stomaco, che disgustato rifiuta il cibo. Egli prova un gran bisogno di dormire, ma nonostante l'estrema stanchezza, il sonno è irrequieto, superficiale, affannoso e senza ristoro. Il cervello è dolorante. È stordito, confuso, come avvolto in una nebbia e preso da vertigini. In tutte le membra agisce un dolore indefinibile. Ogni tanto, senza alcuna cagione, il sangue esce dal naso. Questa è l'introduzione. Segue un forte attacco di brividi che scrolla il corpo e fa battere i denti. È il segnale d'arrivo della febbre, che raggiunge tosto le più forti temperature. Nella seconda settimana l'uomo è libero dai dolori di testa e muscolari. In compenso le vertigini sono diventate assai più violente e nelle orecchie c'è un tale brusio, un tale ronzio da provocare addirittura un inizio di sordità. L'espressione del viso diventa ebete. Le labbra incominciano a stare aperte, gli occhi sono velati e assenti. La coscienza è ottenebrata. Il malato è dominato dal desiderio di dormire e spesso, se non proprio nel sonno, cade in un plumbeo torpore. Intanto i suoi vaneggiamenti, le sue fantasie esagitate, empiono la stanza. Nella terza settimana la malattia raggiunge l'acme. Il delirio è cessato e nessuno può dire se lo spirito del malato sia sommerso nella notte vacua o se, disgiunto e lontano dal corpo sofferente, viva in sogni remoti e tranquilli, dei quali nessuna voce e nessun indizio rivelano l'esistenza. Il corpo è avvolto in una insensibilità senza limiti. Questo è il momento della crisi. In certi individui la diagnosi è resa difficile da circostanze particolari. Che dire, per esempio, se i sintomi iniziali della malattia, il malumore, la spossatezza, la disappetenza, il sonno inquieto, i mali di testa, esistevano già quando il paziente, speranza della famiglia, era ancora in piena salute. Se anche a loro intensificarsi improvviso non si sono palesati come un che di straordinario. Certo, un bravo medico colto e capace, come tanto per fare un nome il dottor Langhals, sarà subito in grado di identificare la malattia, tanto più che la comparsa delle pericolose macchioline rosse sul petto e sul ventre gliene darà la certezza. Egli non sarà in dubbio sulle misure da prendere, sui rimedi da applicare. Ma egli usa tutti questi rimedi a caso, quasi nell'ipotesi che possano avere qualche effetto, ignorando se la loro applicazione non sia del tutto inutile e senza scopo. Il tifo si presenta così. Nei remoti sogni febbrili, nell'ardente smarrimento del malato, la vita entra con voce incoraggiante e inconfondibile. Dura e fresca, questa voce raggiungerà lo spirito sulla via strana e cocente per la quale è incamminato verso l'ombra, la frescura, la pace. Il paziente starà in ascolto e percepirà quell'invito, limpido e un po' ironico, a voltarsi e tornare indietro, quell'invito che gli viene da una regione che egli aveva lasciata così lontano dietro di sé e che aveva ormai dimenticata. Se ribolle in lui quasi il senso d'avere vilmente trascurato i suoi doveri, un senso di vergogna, di novella energia, di coraggio, di gioia, di attaccamento a quel lavorio beffardo, vario e brutale che si è lasciato alle spalle, per quanto si possa essere allontanato su quella via strana e cocente, allora egli ritornerà indietro e vivrà. Se invece rabbrividisce di paura e di ripugnanza per la voce della vita che lo chiama, se quel ricordo, quella voce gaia e invitante fa sì che egli scuota il capo e tenda la mano dietro di sé con un gesto di rifiuto e si inoltri fuggendo per la via che gli si apre davanti, allora si sa, allora morrà. Thank you. Non è giusto, non è giusto, Gerda, diceva per la centesima volta la vecchia signorina Weichbrot in tono di accorato rimprovero. Quella sera, nel salotto della sua ex allieva, occupava un posto sul sofà nel circolo formato intorno alla tavola da Gerda Budenbrock, dalla signora Permaneder, da sua figlia Erika, dalla povera Clotilde e dalle tre signorine Budenbrock della Via Larga. I nastri verdi della cuffia le ricadevano sulle gracili spalle ed era costretta ad alzarne una ben in alto per poter gesticolare col braccio sul piano della tavola, tanto era diventata minuscola coi suoi 65 anni. «Non è giusto, lasciatelo dire. Non fai bene, Gerda», ripetei con voce tremula e fervida. «Io sono con un piede nella tomba. Ho così poco tempo davanti a me. E tu vuoi lasciarmi? Vuoi abbandonarci? Vuoi separarti per sempre? Partire? Fosse un viaggio, una visita ad Amsterdam, ma per sempre?» E scosse la sua vecchia testa da uccello con quegli occhi bruni, intelligenti, malinconici. «È vero che hai perduto molto?» «Tutto ha perduto», interloquì la signora Permaneder. «Non dobbiamo essere egoiste, Therese. Gerda vuole partire. E parte. Non c'è nulla da fare. È venuta con Thomas Orsono 21 anni e tutti le abbiamo voluto bene, per quanto le fossimo sempre odiosi. Ma sì, Gerda, è così, non protestare. Ma Thomas non c'è più e nessuno c'è più. Che cosa siamo noi per lei? Niente. Ci dispiace molto, ma tu, Gerda, vai pure con Dio. Noi ti siamo grate di non essere partita prima, allora, quando è morto Thomas». Era dopo cena, una sera d'autunno. Da circa 6 mesi, munito delle benedizioni del pastore Pringsheim, il piccolo Johan, Justus Johan Kaspar, stava laggiù, al margine del boschetto, sotto la croce di marmo e lo stemma di famiglia. Fuori, la pioggia scrosciava sugli alberi mezzo spogli del viale. Ogni tanto un colpo di vento la buttava contro i vetri delle finestre. Le 8 donne vestivano tutte di nero. Era una piccola riunione di famiglia per prendere commiato da Gerda Budenbrock, che stava per abbandonare la città e ritornare ad Amsterdam, dove, come una volta, avrebbe suonato i duetti col vecchio babbo. Nessun obbligo la tratteneva più. La signora Permaneder non aveva più nulla da opporre a quella decisione. Si rassegnava, ma nell'intimo ne era profondamente addolorata. Se la vedova del senatore fosse rimasta in città, se avesse conservato sul luogo il suo posto nella società e il patrimonio, il nome della famiglia avrebbe mantenuto ancora un po' di prestigio. In ogni caso, la signora Antoni intendeva camminare a fronte alta finché fosse rimasta al mondo e tra la gente. Thank you. Nonostante la movimentata vita trascorsa e nonostante lo stomaco debole, non le si davano i suoi 50 anni. La carnagione si era fatta un po' cascante e scialba e sul labbro superiore, il bel labbro superiore di Tony Bodenbrock, la peluria cresceva più abbondante. Ma nei capelli lisci, sotto la cuffietta nera, non le si sarebbe trovato nemmeno un filo bianco. Sua cugina, la povera Clotilde, prendeva la partenza di Gerda con dolce indifferenza, così come si devono prendere tutte le cose di questo mondo. Poco prima, a cena, aveva mangiato con impassibile voracità e ora se ne stava lì, magra e cinerea come al solito, e distribuiva cortesie stiracchiando le vocali. Nemmeno Erika Weinschenk, ormai 31enne, era donna da agitarsi per il distacco dalla zia. Ne aveva passate di peggio e assai presto aveva imparato a rassegnarsi. Negli occhi stanchi e celesti, gli occhi di Grünlich, le si leggeva l'adattamento a una vita mancata e se ne udiva l'eco nella sua voce pacata e talvolta un po' querula. Le tre signorine Budenbrock, figlie dello zio Gotthold, avevano un'aria piccata e criticona come al solito. Friederike e Harriet, le maggiori, invecchiando si erano fatte sempre più scarne, ossute, mentre Pfiffi, la più giovane, 53enne, era ben piccola e corpulenta. Si parlò del viaggio di Gerda, del treno col quale intendeva partire e della vendita della villa mobiliata assunta dal mediatore Gosch. Gerda, infatti, non portava via nulla e se ne andava come era venuta. «Mi rincresce di non poter salutare Christian», osservò Gerda, e così si venne a parlare anche di lui. C'erano poche speranze che potesse uscire un giorno dall'istituto nel quale era ricoverato, per quanto il suo caso non fosse tanto grave da non permettergli di vivere in libertà. Ma a sua moglie quella situazione piaceva troppo. Era, come asseriva la signora Permaneder, in combutta col medico e Christian avrebbe probabilmente finito i suoi giorni in quel ricovero. Seguì una pausa. Il discorso si volse lentamente e con cautela ai fatti recenti, e quando fu pronunciato il nome del piccolo Johan, si fece un grande silenzio, nel quale si distingueva meglio il fruscio della pioggia davanti alla casa. L'ultima malattia di Hanno, che doveva essere stata spaventevole, era come velata da un greve mistero. Parlandone a mezza bocca, con allusioni sommesse, tutte tenevano gli occhi bassi. Poi si revocò quell'ultimo episodio, la visita del contino malvestito che si era introdotto quasi a forza nella camera dell'ammalato. Hanno, udendo la sua voce, aveva sorriso per quanto non riconoscesse più nessuno, mentre Kai non cessava dal baciargli le mani. «Davvero gli ha baciato le mani?» domandarono le signorine Budenbrock. «Sì, molte volte». Qui tutte tacquero pensose. Ad un tratto la signora Permaneder scoppiò in lacrime. «E io gli ho voluto tanto bene. Non potete immaginare quanto gli volevo bene. Più di voi tutte. Oh, scusa, Gerda, tu sei la mamma. Oh, era un angelo». «È un angelo adesso», corresse Sesemi. «Hanno, piccolo Hanno», continuò la signora Permaneder, mentre le lacrime le scorrevano sulle guance cascanti e scialbe. «Tom, il babbo, il nonno e tutti gli altri, dove sono ora? Non si vedono più. Oh, è dura, è triste. Dopo ci si rivede», disse Friederike Budenbrock giungendo le mani in grembo, abbassando gli occhi e alzando il naso. «Già, così si dice. Ma ci sono momenti, Friederike, in cui non c'è conforto. E Dio mi perdoni, si comincia a dubitare della giustizia, della bontà, di tutto. La vita, voi sapete, frantuma tante cose nel nostro cuore, delude tante volte la nostra fede. Rivedersi fosse vero». In quella, Sesemi Weibrot si rizzò quanto poté, si resse in punta di piedi, allungò il collo, batté sulla tavola mentre la cuffia le tremava sulla testa. «È vero», disse con tutta la sua energia e guardò le presenti in aria di sfida. E così stette, vittoriosa nella buona battaglia sostenuta in tutta la vita contro gli assalti del suo raziocinio di maestra, gobba, minuscola, vibrante di convinzione, come una piccola veggente tutta entusiasmo e rampogna. Buongiorno, il mio nome è Bianca Maria Frabotta. Decadenza di una famiglia è il sottotitolo voluto da Thomas Mann per un romanzo che chiude il secolo delle appassionanti narrazioni naturalistiche e delle quali, come dei Buddenbrock, quest'opera ripercorre l'abbagliante parabola di ascesa e declino. Mai più in seguito Thomas Mann si permetterà una simile disinvoltura nel racconto, nel parco dosaggio dei dialoghi, nella tipizzazione quasi epica dei personaggi, che a differenza di quelli che sfileranno nei romanzi successivi, altrettanto torrenziali ma assai più rarefatti, dalla Montagna Incantata al Dottor Faustus, qui parlano poco, riflettono ancora meno, ma piuttosto agiscono e impersonano quasi innocentemente il loro destino. Insomma, vivono, innanzitutto nel ricordo indelebile che imprimono nella nostra memoria di lettori. Eppure già tra i fratelli Buddenbrock, come abbiamo sentito, imperversa la malinconica tirannia della bellezza, l'ineliminabile componente dello spirito tedesco e della tragica missione della sua Kultur, opposta alla borghese, laica, e più ragionevole civilizzazione diffusa in Europa dalla Rivoluzione francese. Tale è il senso della ipocondriaca inettitudine di Christian e delle sue isteriche somatizzazioni, ma è soprattutto Thomas, il personaggio su cui l'autore riversa la sua più solidale attenzione, il vero, inconsapevole colpevole. L'ultimo della dinastia a recitare il ruolo che gli compete, l'inappuntabile senatore, l'avveduto accumulatore di profitti, già un po' troppo dandy, artificioso interprete di se stesso e nel profondo vittima del fascino indefinibile di ciò che non comprende. È sulle note del violino della moglie Gerda, enigmatica, esotica e un po' freddina, come la musica del suo adorato Wagner, che la decadenza si allarga nella famiglia e dilaga. Gerda è poco più che una comparsa, quasi un fantasma, eppure introduce nel limitato retaggio dei Buddenbrock, nella loro rassicurante stanza dei paesaggi, il tarlo di una sofferenza estetica totale, antiedonistica, vissuta come dedizione estrema, piena offerta di tutte le energie fondamentali del corpo e dell'anima. Chi sta bene non cambia, ha chiosato con asciutta brevità il narratore, commentando le ambiziose scelte del suo alter ego Thomas, e da lui ha opposto, ma senza amore e partecipazione vera, la sorella Toni, la frivola vestale di un mondo ormai sparito, e la sua congenita ed irritante spontaneità, la sua ostinata fede in una quasi eroica appartenenza. Toni, così come ha aperto il romanzo, ora lo chiude, stringendo fra le mani tutto ciò che resta dei Buddenbrock, le carte di famiglia, appunto, di cui resterà, sola, fra donne sterili o vedove, l'ultima lettrice. Elsa Agalbato ha letto I Buddenbrock di Thomas Mann, postfazione di Bianca Maria Frabotta, edizioni Mondadori, traduzione di Erminio Poker, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.